cats in my garden is choking the trees, and the leaves blow like bat swings into the fire. Windows gaze sightless into the woodland, seeing the white smoke rise ever higher. Dry-skinned into my portrait, painting the canvas black with his heart. Sunrise is flaming over my shoulder, tearing the burned land's future apart. E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, altra band ospite in studio da Vicentino, una formazione veramente tosta che è venuta a presentarci il suo disco. Ragazzi, a voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, siamo i Cani. Io sono Rispio Bass, il bassista. Io sono Michele, il batterista. Con i Cani, il solito momento vintage iniziale, con una prima parte molto speciale data la grande devozione che hanno gli ospiti di stasera verso la figura di Lemmy. Il brano che avete infatti appena ascoltato si chiamava Midsummer Night dei Sam Gopal, dal loro unico omonimo disco del 1969, in cui il grande bassista debutta ufficialmente dopo essere stato Roddy di Jimi Hendrix. Un Lemmy qui agli albori, ma già scriveva le future coordinate per i Motorhead. Che ne pensate? Ma ti dico, i Sam Gopal facevano musica molto diversa da quella dei Motorhead. Fondamentalmente erano molto più hippie. Poi Lemmy al periodo cantava e suonava la chitarra. Forse loro erano molto più influenzati dagli anni 60, tant'è vero che il fondatore Sam Gopal suonava anche la tabla. Difatti l'esperimentazione era un po' la base di quegli anni, molto vergine per la musica, apprezzo molto comunque. Voi siete assieme dal 2007, come vi formate e perché avete scelto questo nome? Siamo io basso, Michele batteria, alias Jib, esatto. Joker voce e Pante, che deriva Pantegan, che in italiano sarebbe Pantegana, alla chitarra, che è il chitarrista. E allora ci prova. E ci formammo, all'inizio cantavo io, e il batterista era una figura diversa, però un po' come Lemmy è stato scartato da varie band per usi diversi e costumi diversi, noi eravamo molto più etero di lui e abbiamo scelto un batterista etero che è Michele, giusto? Sì, diciamo che adesso è per lo più l'attuale etero. Batterista di Adam Bomb. Ecco, quella ha trovato la sua direzione. Evidentemente, sì. E il nome Cani per, beh, chiare questioni cinofile che siamo tutti gran appassionati. Io personalmente ne ho tre. Bene, dai. E dopo un po' per l'incitamento della gente, per altra band che abbiamo avuto in precedenza, io e il Pante, era Cani sotto il palco, Cani, come trovavamo a dire Cani, ci chiamavano Cani. E poi abbiamo, diciamo, deciso quattro ragazzi chiamandosi Scarafaggi hanno fatto tutto quel successo. Esatto. Magari chiamandosi Cani si poteva replicare. E dopo fa figo la K al posto del C. Che abbiamo scoperto che in finlandese vuol dire coniglio. Sì, come Kaninchen in tedesco. Le proto e granchio in giapponese. C'è anche un'isola in Giappone che si chiama Kani. Dopo l'esperienza con i Sam Gopal, Lemmy nel 1972 si unisce agli Hawkind e a partire dal disco Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. Da quel lavoro ascoltiamo uno dei brani più noti della band, Urban Gorilla. Two-tone panther. So let's start talking. Si raccontano storie leggendarie sulla permanenza degli Hawking di Lemmy. Si tratta di una formazione che comunque ha anticipato moltissimi dei generi che ci sono ancora oggi. Voi che ne dite? Ah, sicuramente hanno anticipato quello che poi sarebbe stato lo space rock. Inoltre bisogna dare atto che hanno anticipato tutto quell'aspetto teatrale sul palco, ovviamente per l'epoca, come suoni, luci, abbigliamento. Sì, anche molto queste chitarre che divagano un po' la primi Pink Floyd, con ritmi incalzanti che dopo forse nel garage, in qualche altro genere. Sicuramente è un passo grosso per la musica. Anche nell'elettronica hanno influenzato molto. Va bene, vostre esibizioni live, come sono andate finora e quali le reazioni a caldo del pubblico a fine concerto? Macello. Nelle esibizioni live, beh, veramente bene, bene, bene, bene, a parte qualcuna male. Qualche bar da alcolisti dove erano in 5 e ci hanno fatto da bere, siamo stati male. Ma hanno tirato i pomodori. No, mai. Sempre tutti contenti. E certo che noi ci scegliamo anche a volte delle date veramente difficili, tipo improbabili. Centri occupati a Colonia, come in Germania. Come rischiate, dai. Abbiamo suonato sotto un ponte, erano baraccopoli. Però dai, il pubblico era contento, tutti troppo soddisfatti. Contento. E ci hanno ubriacato anche. No, comunque, tutti, cioè gran parte del pubblico alla fine dei concerti è sempre soddisfatto dall'energia che riusciamo a sprigionare dai nostri live. Poi ovviamente il genere è abbastanza di nicchia, non è facile piacere a tutti, però noi ci proviamo. Sì, ovviamente, e dopo vanno via molti CD, molte maglie. Bene, bene, dai. Direi positivo. Dopo essere stato cacciato dagli Hawking, Lemmy forma una sua band e si rivelerà la mossa giusta. Infatti da più di 35 anni è ancora sulla cresta dell'onda con i Motorhead, che ora ascoltiamo dal disco Overkill del 1978, con I Want to Pay Your Price. Ci ritroveremo subito dopo gli spot.